radio. Prova, prova radio. Ti sento bassissimo, dimmi se sto uscendo di radio. Già stai uscendo a bassissimo. Qual è la tua zona di modulazione? Sta arrivando basso, c'è un'antenna bassa, ce n'è solo sul 10 per una prova radio? Attenzione 10 per una prova radio, qualcuno di Sassari? Sì. Hola, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, c'è nessuno a prova radio, 1, 2, 3 prova. Sì, non il basso, perché siamo lontani e sto utile, aspetta un attimino, così abbasso, così. Eccolo qua, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, prova radio, prova, prova radio, prova radio. Allora, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, è incomprensibile o bassa? No, sei basso, sei molto basso e anche cucco, sembra che sia una patata in bocca. Qualcuno di Sassari per una prova? Già ci sono, ci sono una migliaia di entrare, passi tutti. No, sono Fabrizio, stavo riparando una radio e mi serviva un attimino vedere come sta uscendo di modulazione. Aspetta un attimo. A volte sei chiaro, ma è roba distante, poi rispondi a essere il cucco comprensibile. Eccomi qua, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Prova. Allora, ho un microfono normalissimo che avevo qua buttato a casa, sempre Galaxy, se mi sei mangiato un po'. Volevo vedere un attimino se stavo uscendo di modulazione, se sentivi qualcosa di strano, lascia perdere, se c'è da toccare la deviazione, qualcosa. C'hai dei rumori ogni tanto, ho il microfono, però quando non c'è dei rumori si bene. L'importante è questo, lascia perdere qualche rumorino che magari... Il microfono può essere, aspetta, lo stringiamo abbassiamo un po' la potenza, aspetta, abbassiamo un po' la potenza magari. Adesso quello che mi interessa è che la radio sta uscendo, non è che ha picchi positivi, negativi, cosa vedi di strano? No, i picchi sono positivi, però ogni tanto gorgoglia. Cosa intendi per gorgoglia? Come che ci sia un falso contatto? Cosa intendi? Guarda adesso, dimmi se sta sborgogliando, come ti sembra che stia uscendo? No, adesso va bene. Allora va bene, lì bisogna chiudere, attaccare l'alimentazione come si deve. Adesso era slittata, questa qua segnava 23, 24, potevi usarla in banda, però non sapevi dove era, perché ogni tanto come accendevi, giravi, andava sempre sulla stessa frequenza, non cambiava, 23, 23 MHz, 22 MHz, anche 25 MHz, dipende. Non ho capito, guarda la... Sì, quello credo che sia quasi impossibile, ho visto già i difetti che fa, che cosa ci hanno fatto, questo è molto più semplice, quindi è andata bene per, anche per culo, perché trovare cosa ci avevano zappato dentro era una vergogna, peccato, questo adesso sembra che vada bene, i tastini gli mancano un po', so quanti watt dava questo, intorno ai 10-12 watt, vero? Sì, prova in FM. Dai, comunque sono riuscito a centrarti io, quindi è inutile che mi metta lì a fare regolazioni in fino, va bene così, già va bene, l'importante è che esca, vedo che esce, siamo, adesso sto uscendo con 10 watt, vabbè c'è anche l'alimentatore che è quello da banco, quindi più di 5 ampere non dà, e rischio anche di bruciarlo. Va bene. Ah beh dai, adesso lo chiudo, adesso chiamiamo, aspetta che chiama Tino, dai, se c'è Tino lo proviamo anche con Tino. Attento Gianni il profeta, cambio. Ciao Eugenio, mi senti? Buonasera. Ciao Gia. Ho collegato il portatile all'antenna esterna, mi senti? Come arrivo? Ah, già ti sento. Come mai il portatile? No, sto facendo una prova, un esperimento. Ho voluto collegare il portatile all'antenna esterna. Volevo sapere come ti arrivavo giù. Oh, c'è già sempre quello. Capito, magari cambia la radio un po' più bassa, però va bene lo stesso. Cappa, perché adesso a strumento questo portatile arriva praticamente a 3 watt e qualcosa, dai, con la commutazione, con la potenza al massimo. È un Alan 38. Lo conosco. Cappa, aspetta che accendo il bambino quello grande, dai. Metti la tua superstazione, dai, aggancia tutto. Mentre così sono con l'antenna sua, mi ricevi? Ciao Eugenio, buonasera. Allora, questa è più alta la modulazione, va bene. Bene, e questa voce da... questa voce da pornostar che c'hai stasera. Anche il segnale è aumentato. No, solo ieri va... mi sento troppo male. Ci abbiamo fatto una spaghettata di cozze fresche e sicuramente ne ho beccato una... gioco relitto. Ti ha gabbato, dai, ma cos'era? Ma crudi o cotte le mangiate? Vabbè, stiamo andando sul 20. Dai. Oh, cotte. Ah, bene, bene. Saluti a tutta la ruota, scusate, Gianni. Gianni dà la buonasera a tutti comunque. No, c'è Fabrizio e un altro, stavamo facendo il problema. E quindi sei abbacchiato forte, ma hai preso qualcosa? Sì, tutto a posto. Sono in fase di recupero. Oh, mamma mia. Dai. Non ti voglio sentire con questa voce, ragazzi. Questa voce è a pornostante. presente, con gli speaker radiofonici che fanno la trasmissione la notte, no? Mi sembra uno di quelli. Io sono dalle 205, insomma. Bene, merda. E giù a Portatore, svelto, ce n'è? Che orgoglio. Io sono in casa perché non sono entrato le altre. Ah, ecco, quindi oggi avresti dovuto lavorare. Sì, oggi ho il turno. Avevo 2 navi da fare, non sono entrate neanche una. Cazzarola. Oh, yeah. E quindi cosa si prospetta? Rientriamo domani o più tardi? Cosa dici? Non lo so, no. Perché anche domani ha messo per entrare in forza. Vabbè, prima o poi dovranno sbarcare questi cazzi. E li portano a Olbia. Ah, K, ok. Più o meno come funziona per gli aerei? Cioè, vengono dirottati da un'altra parte? Esatto. Bene, merda. Uia. Qua lo stesso già sta tirando vento, vedo le palme qua, la stazione, che già le sta muovendo bene, quelle alte, nel piazzale. E quindi quelle mi fanno da termometro, dai. No, c'è, siamo arrivati a 100 km orari come qua, sotto adesso. Caspita. Vabbè, noi siamo una terra del maestrale, quindi... qual è più sopportabile, il maestrale o il vento che c'era qualche settimana fa? Allora, nessuno dei due, perché il maestrale gira le palle e le vante rompe i coglioni, tutti e due. Sente, con le vante hai più probabilità che le navi entrino, capito? Cappa. Vabbè, domanda un po' stupida, perché entrambi danno fastidio. Comunque, magari c'era un vento che era, insomma, più fastidioso di un altro, capito? Io da ignorante ti ho fatto questa domanda. No, vabbè, allora, più fastidioso è il levante, secondo me, perché entra di più al porto, ti fa quelle onde che salgono sopra la banchina, che devi lavorare con gli schizzi là, qua un casino. Più fastidioso è l'elefante. Ho capito. Oggi compreso. Comunque, dai. in linea di massima sono fastidiosi tutti e due, questo, su questo siamo abbastanza concordi e la pensiamo in maniera, la stessa maniera, dai. Quanti vaggi in casa già? Non si scende. Ehi, guarda, non è che abbiamo molta ispirazione ultimamente ad uscire, quindi non ho, sono un po', come si dice, non sono così in forma, dai. Faccio un peso, dai, ci sono quei periodi, bisogna entrare un po' più veloci qua. Hai ragione, dai. Questo è uno di quelli, un fermo biologico, anche io uso quel termine. Ascolta, ma Gino e tutta la greffa, li stai ancora vedendo? No, ognuno con i fatti suoi, perché come tutte le cose belle finiscono molte volte anche di mala maniera. Però con Gino salgo in negozio a trovarlo, capite? Vabbè, ho detto Gino, nel senso, dico, se andavi, se ti capitava di andare a trovarlo, mi? Sì, salgo in negozio a salutarlo, anche quando passo a Sassari, ci passo sempre, quando mi trovo a Sassari ci passo negozio a salutarlo, capite? Ehi, io sono un po' che, forse sarò 6 mesi o un annetto forse che non passo a trovare il negozio. Sempre lì. Ho visto, ce l'ho come contatto su Facciabuco, quindi vedo che si muove sempre, che fa muovere bene l'attività, e quindi è sempre movimento, questo mi fa piacere. Bene mera. Poi io sono, non vedo più un sacco di gente da anni, quindi sono completamente fuori dal mondo. No, è diventato re di Facebook, Gino, oramai. Fotomodello è diventato. È super figo, ragazzi. Figo de costa. Beh, sono contento per lui. Andava bene. Qui ha anche bella roba, eh. Io prendo molta roba da lui e ha veramente bella roba. Sì, c'ha buon gusto, dai. Meno male, perché insomma a Sassari certe cose mancavano in quel tipo di settore, quindi meno male che ci ha pensato lui a tappare quel buco. Sì, vende anche molto, volendo ci fa arrivare anche altri. Sì, lo so, che ha anche quella possibilità, svariati canali anche per altre marche, insomma. È che adesso non è più come prima, ti ricordi? Un po' di anni fa le moto le vendevano come l'acqua, adesso le cose si sono ridimensionate parecchio. Prima c'era un sacco di roba in giro, adesso proprio è calata notevolmente. Ora questo riesce a girare il moto. E quei pochi che trovi sono tutte mascherine, sono tutti motociclisti super pecciati. Poi dice, bella la pezza di Capo Nord. Se tu sei stata a Capo Nord, no, me l'ha fatta Medico Montesi. ho capito. Vabbè, come c'erano prima ci sono anche adesso, quindi non è stato inventato niente, diciamo che adesso la maggior parte, cioè adesso la percentuale di quelli è aumentata. Ma notevolmente sui veli fanno anche ridere. Meno male ho cambiato genere, nel senso che faccio molto per me e basta. Eh beh, certo, ho sentito una portante graffiare. Graffiare, buonasera. Stai graffiando già. Come continuata? K, ciao Gianni, buonasera. È come la roba che ho sentito ieri. Questa conferma che non sono scariche dovute al meteo, ma mi sembra di problema di cavo. Falso contatto. È come se lo spinotto non fosse entrato bene. Magari anche Eugenio ti può confermare questo. No, non è il cavo. Non so io cos'è. È il PTT della portante. Sicuramente è entrata a polvere, dai. K. Vabbè, quindi come falso contatto, dai, non era preciso. Bene meda, dai, ti rilancio Eugenio. Sono qua ragazzi, mi sono un problema di... Come si dice? Ma anche lei, Eugenio. Ma tu mi spiegate che stai graffiando. Continuate voi, già ci penso io adesso, non ti preoccupare. Che adesso vediamo, lo controllo il microfono e vediamo un po' se sta graffiando o no. E lo fa ogni tanto quando... Dai, sentiamo un po'. Già, stavo dicendo che adesso io ho smesso da anni di fare raduni. Vado quasi ogni anno, vado in Austria, faccio sì e basta. Ah, ho capito. Vabbè, qua comunque giri lo stesso, cioè, nel senso, i tuoi giretti qua te li fai comunque. Sì, io qua prendo, faccio un giro, mai dovevo anche due giorni fuori, però niente a che vedere con raduni, gente, no, non è fatto più niente. A chi sono la mangia di tutti i canti di braccio duri. Vabbè, comunque hai girato con qualche amico, qualche buon amico, già insomma, già si può fare, sicuramente qualche uscita con qualche buon amico già te la fai. Sì, ti ripeto, ho parlato da Luglio, cioè da lui qua funziona così, chiosco della pietra, il complessino che cerca di suonare, stop, finito. E non sei nessuno se non hai qualcosa attaccato al giletto. Guarda, la conosco bene anch'io, quella realtà, quindi tra virgolette non mi stai dicendo niente di nuovo, lo so, è abbastanza triste. Mi è capitato di, tra virgolette, di lavorarci in contesti del genere, quindi ti confermo, posso confermarti anch'io che insomma, e adesso è tutto praticamente è tutto omologato. Tutte queste situazioni, tutti questi movimenti sono tutti omologati, sono praticamente uno una fotocopia dell'altro. Adesso non più dove sei andato. Cazzo, è bello, hai fatto il viaggio, sei andato in moto di là, no? Adesso è più... Quanto hai speso per metterti le specie nel giletto? Chi più spende è più calcolato, capito? Non hanno capito niente. Vabbè. Già lo sai come me che quella è solo aria fritta, non conta un cazzo, è solo buccia a me, cioè non vale assolutamente niente, cioè, le cose importanti sono altre. Vabbè, ho sempre trovato questa cosa qua molto come ti devo studiare? Non mi viene il termine. Sì, perché alla fine lo spirito di aggregazione, dello stare in moto, di uscire, di vedere nuove situazioni, che ne so, di farti una cultura motociclistica, è sparito, non c'è più niente, io le chiamo mascherine. A chi li vede tutti quanti pecciati e poi dicono che l'hanno comprata, mi questa l'hanno comprata al vero, questa l'hanno comprata, me la sono fatta fare, quella no, non ha consenso. Certo, certo, ti capisco benissimo, ti capisco benissimo. Vabbè, non è il massimo della vita, insomma, per gente come me, come te, che ha una filosofia completamente diversa, e purtroppo questo è uno dei tanti aspetti della moto di oggi, insomma, tutto buccia, poi vabbè, già non ho mai digerito il fenomeno importato copia e incolla dagli americani, cioè, l'ho trovato sempre una grande forzatura e questo non mi è mai piaciuto. Io preferisco innanzitutto il contatto diretto con gli amici, cioè un conto è uscire e stare bene con gli amici, poi il resto sono dettagli che insomma spiccioli, non sono rilevanti, e questo già dai tempi che furono non mi c'è mai sceso, quindi a parte tutte le volte che qualcuno ha tentato di convincermi ha trovato sempre cazzo le porte chiuse. Sì, vabbè, a prescindere dalla io sempre penso che sono un possessore di altri, non sono un atleista, perché l'arleista aveva una mentalità, io non altro, a me piace la motocicletta, sto. Però a prescindere da questo, tagliati, andare in giro di moto, non ho più gana, cioè non è la più voglia, non è che non ha più voglia. Secondo me è capace di allontanarsi dalla propria città. Però poi quando vai a raggiungere, quello che arriva molto, mi ha sempre dato molto fastidio, cioè quando vai a raduni, si è preso in considerazione solamente per quello che è attaccato al giro, che poi tutta roba pazza. Io quando non riesco, allora ho detto, boh, basta, usa, so fare raduni in mezzo a questi bagliacci. No, ciao, e me ne vado in giro con i fatti miei. Sì, capisco e condivido la cosa. Infatti adesso se ti fidi fanno tra virgolette, sono più particolari quelli che non hanno le pecci che quelli che ne hanno troppe, perché praticamente anche se cambi il gruppo, praticamente la sostanza non cambia, è sempre la stessa cosa. Anche l'altro giorno ho fermato un amico, mi siamo organizzati da nulla, vieni, bello mio, c'è il chiosco, il panino, la birra, poi musica, e poi, nulla. No, cioè, vedo che sto lavorando, non so se ce la fai, sto lavorando. Sì, poi adesso vanno di moda le tribute band, quindi no, è veramente è tutto uniformato, ci sono solamente quei cliché, è tutto un cliché, dall'intrattenimento, dalla musica, dall'abbigliamento, è tutto un insieme di schemi, di cliché e basta. È sempre il solito copione, cambiano i posti, però fondamentalmente poi le cose sono sempre uguali. Io mi lamento un sacco di anni fa quando mi capitava di andare a Macomera, a Riola, insomma, ai svariati raduni, cazzo, cioè era bello perché ognuno era uno spirito libero, cioè era bello proprio per quello, perché non aveva ancora attecchito questo fenomeno. Poi piano piano, con l'avvento di certi modelli, per carità. I nuovi, le new entry, capito? Sì, le new entry che hanno, poi adesso siamo proprio caduti nell'assurdo, nel ridicolo. Cioè vai a raduni e ti trovi quello con il gilet del Sons of Anarchy, aglio, facciamo la grave. Te l'ho detto, è solamente lo trovo solo un copia e incolla di cose che non sono nostre, purtroppo, no? Quello è uno dei tanti esempi di fenomeni che a livello culturale sono stati importati qua senza nessun tipo di personalità, a me, cioè copia e incolla e basta. Avanti lo stacchetto. Non hai sentito lo stacchetto col fischio? No. Non lo so, magari era doppio room. Gianni, tu eri? No, Gianni, magari c'ha lo cacciavite in mano e spray per contatti. Ui ui, crocro. La moto era bella un bel po' di tempo fa. Adesso, cioè, parlo personalmente, poi si è tutto appiattito. E quando andiamo alle luci ne parliamo sempre, no? E io gli dico, anche tu sei cambiato. Giustamente dice, io cazzo c'ho un'attività, non è che posso, giustamente. Però anche lui lo dice. E vabbè. Come tutte le cose belle poi va a scemare la cosa, no? Certo, e vabbè, lui ha chiaramente per un discorso imprenditoriale, chiaramente lui si deve, tra virgolette, adeguare anche lui, sarà tra virgolette costretto a fare dei compromessi, quindi voglio dire, però a livello personale sono sicuro che le cose lui le fa in maniera diversa, cioè nel senso, a me la mentalità di Gino mi è sempre piaciuta, come insomma da spirito libero l'ho sempre ammirato per questo, quindi su quello non si discute. Poi giustamente a livello commerciale è chiaro che magari in certe situazioni si deve anche tappare un po' il naso e quindi cercare di accontentare fette di mercato che magari non sono collegate al suo stile direttamente. Già, e allora? Guarda adesso se va bene, dai, che lo gli ho messo il cerriccio. Adesso va bene. Vabbè, allora va bene. Oh, Gianni, caffè. È così. Purtroppo, ma l'importante è che io abbia la morte, me ne vado a farmi in giro poi, e si ne affatti. Assolutamente sì. Poi l'importante è poi alla fine mettersi giù botte il casco, girare la chiave ed essere assolutamente liberi di prendere le strade che ognuno desidera fare, poi il resto è solo aria fritta. E ci non li ha fatti vedere. E poi mi ha detto, ma io li voglio già tutti i pezzi. Mi sono fatti vedere. Ma dopo sono d'accordo. Mamma mia, già belli e pronti. Vedi, cazzo, e torniamo sempre al solito discorso. Ormai è uno standard, un cliché, un'immagine, cioè il cliché del motociclista è quello. O è quello o è il tipo in BMW. Cioè, uno o l'altro, cioè, capito? Quindi ormai i due cliché sono quelli, cioè. Adesso praticamente non, prima le BMW, cazzo, chi li vedeva, cazzo, gli tirava le pietre, cioè moto tra virgolette qua a Sassari, okay, a Sassari non comprende nulla, moto completamente disprezzata, marchio completamente disprezzato e tra virgolette sottovalutato e denigrato a tutti, e poi improvvisamente anche lì anche quell'altro fenomeno di immagine, di insomma di etichetta, e praticamente sono spuntati anche questi, capito? Sì, però c'è una cosa, c'è chi ha il BMW, qualche chi si copre il BMW qualche chilometro fa, capito? A differenza di altri che sono un paio di anni, non so, escono da casa, dal garage, per farsi lungo mare, per farsi altrove, 11, 11 e mezzo, nei due giorni, l'uno esce e va da casa a mangiare, e si manda a casa, si fa lungo mare, a casa, grande motociclista. E vabbè, già lo sai, di quelli ne piene il mondo, già li ho visti anch'io a suo tempo, personaggi del genere, vabbè, posteggiavano in altre parti, però sai, il solito giretto, la moto super lucida di pacca, sempre ferma in garage, tolta fuori solo per fare il cingomma, e basta. Purtroppo sono sempre quei cliché, cazzo, brutti, veramente brutti, brutti, brutti, che praticamente per certa gente sono un oggetto da ostentare, basta, cioè, per confermare di appartenere a un certo status sociale, capito? Cioè, io sgugiscio, va giugiscio, quindi sgugiscio, boh, finito, ciccia, e anche quelli lo stesso fanno parte della grande mandria, cazzo, perché è come, ti ripeto, come quelli adesso delle BMW, non tutti, però dico, sai, sicuramente ce ne saranno molti che useranno la moto per quello che è stata concepita, però molti altri ci danno in comparata perché fa figo, capito? Sì, sicuramente anche lì ci sono quelli che si comprano il garage di moto perché fa figo. Ecco, un paio di anni fa ad Alghero era venuto col Monster con i pinocchietti bianchi e l'infradito e la maglietta rosa Guru perché faceva figo, e di moto noi comprendiamo un cazzo. Sì, vabbè, come mi è sempre piaciuto dire, è la moto che fa il motociclista e non il contrario. Infatti io rispetto di più uno che guida Vespa, si va di portatore Scagliari, che uno con l'Harley che fa il suo lungomare. Perdonami, vabbè, ho sbagliato, l'ho detta alla rovescia, mi sono incasinato, cioè volevo dire che è il motociclista che fa la moto e non il contrario, adesso mi ero, la giudita all'inverso, è la testa, è la filosofia che fa tutto il resto, poi sono dei comunisti mezzi meccanici, come ti la bisciura, se una pistola la tieni nel cassetto non fa male a nessuno, però se la usi i risultati sono quelli, no? Cioè, quindi, voglio dire, è come la zappa si può trattare, fa fare voce in terra, però cazzo, se si racchiude a mura di godo anche di uno, cazzo, lo c'è bideci. Una Ehi, già nel doppio room, risolto? Ma penso di sì, non lo so, questo non mi dice se ho risolto, sto parlando col microfono. K. Va benissimo, adesso è tutto ok. Il volume, l'amplificazione del microfono che forse risulta appena un po' alta del solito. Guarda, adesso te l'ha passata. Prova di nuovo. Guarda, c'è qui forma di sistema. Guarda, se abbassi un altro CC è perfetta. Mi non me lo fa abbassare troppo. K, ok, così va bene. K, va bene. Io i difetti li conosco già, senza venire. Sì, infatti ho immaginato anch'io che fosse qualcosa tipo cavo o il tasto, roba del genere, o spinotto, quindi più o meno avevo già intuito, dai. Volete il capo interrotto, qualche cosa del genere, io te l'ho detto subito. Che è entrata polvere sicuramente, perché sia nei cursori che nei PTT c'è il canale dove può entrare polvere, e prima l'ho soffiato a un fumino, non con compressore umano, l'ho soffiato e poi gli ho messo il CR5 per contatti, 6 più 6, più 66, CRC marino per contatti. K, sì, lo conosco. Quello va benissimo. Se ci metti lo spray per contatto, così che usano i tecnici, non funziona. Già fatto, già provato. Ho capito. Vabbè, quando è? Qualche sera fa, adesso non mi ricordo se fosse, non mi ricordo il nome, se fosse Antonio, da San Giuseppe credo. Stavo provando il microfono, l'ha smontato, perché si sentiva che c'era un falso contatto, ha richiuso il microfono e ha messo la capsula alla rovescia. Praticamente quando è rientrato, insomma, chiaramente il suono, la radio aveva tutta un'altra modulazione, e sembrava, gli ho detto, guarda, è come che tu stessi parlando praticamente non davanti ma dietro al microfono. Ho detto, ma sei sicuro che magari a prendere e chiudere il microfono non ti sei incasinato con la capsula e l'hai messa al contrario? Adesso guardo. Aspetta un attimo, ha smontato il microfono, l'ha beccato e c'era la capsula al contrario. Questa è come mio padre una volta, era per contare, sentivo, signora non la sento, lui allora la copre e mi ha beccato. E dice, se tu non la sentirei, non la potrei mai sentire. Ehi, certo. Vabbè, può succedere. Tanto già così qua mio padre l'ha conosciuto. La parola per volta 1. Insomma, non lo so, probabile, può essere. È presente la panetteria volta 1? Sì. E più avanti c'è presente che cosa c'era, sempre dalla stessa parte. Adesso... Mi sfugge a dirti la verità. mi sfugge. Ma tu da tanti anni hai abitato? Guarda, io per 21 anni ho abitato in via Mercato, dentro un vicolo, zona Mercato Civico, e poi dal 91, 90-91, praticamente qua nei pressi della stazione. Ma non parlare, ma la cartoleria lì. Mi ricordo un negozio del genere, ma se devo essere sincero non ho, insomma, mi ricordo che c'era qualcosa del genere, ma non ti posso dire più di tanto, capito? Andare così qui di popolizione, comunque mio padre si è cercato anche di fronte alla stazione, ci ha preso altri gli amici, è andato a trovare tutti i morti, poi a Sacro Cuore tutti i morti, poi i giardini sono tutti morti, alla fine dice adesso tocca a me, passa a fare l'anno e dopo via 96 anni e grazie a Dio sino a 96 anni è campato. Caspita, vabbè. Sì, diciamo che poi se vuoi dirti tutta la verità, chiaramente da bambino e ragazzo ho vissuto e ho conosciuto più quella parte interna del centro storico. Adesso diciamo che se proprio vogliamo essere precisi, sono fuori le mura io. Sono fuori le mura perché le vedo le mura di Porta Sant'Antonio. Però prima ero dentro, adesso praticamente sono fuori, quindi quando dico centro storico, dai, non lo sto dicendo correttamente, dai. Sì, adesso sono fuori le mura. Va bene così, dai, avanti oggi. Certo che sì. Immagino, vabbè, succede sempre così. Avanti già. Sassari. niente, ce ne sarebbe da dire. Dai, però tutto sommato a prescindere da come si dipingano certe cose, comunque chiaramente tutte le varie invasioni, i vari tra virgolette nemici arrivano sempre dal mare, e chiaramente ci vuole anche coraggio a difendere le coste. Io una volta ebbi una grandissima, chiamiamola, discussione con un amico di Nuoro, dicendo che insomma che i veri sardi erano quelli che stavano sulle montagne, che praticamente un certo tipo di colonizzazione lì non era mai arrivata perché l'uomini golpero, insomma, questo e quello e quell'altro, agito. A parte, vabbè, che insomma è tutto molto discutibile. Poi in seconda analisi gli ho detto: guarda che se evidentemente certa gente non è arrivata qua è perché evidentemente qualcuno alle coste tra virgolette si è dato da fare, sino a chiusura. Non so se potevi dire le stesse cose. E Eugenio, così va meglio Gianni. Hai ragione, Gianni, c'hai ragione, è così. E allora quelli sono gente tarata. Gianni, dammi un controllo di radio, così vediamo un po' come va. Così amplificata da solo. Ottima e abbondante. Questa luce. Va benissimo. Brava, brava. Bella amplificata, tranquilla, bella. Sono cessato, non mi ricordavo come era, no? Ma stai usando il Galaxy? Sì, ha sempre il Galaxy. Bene, mi piace molto quella radio. Bella, io ne ho avuto 5 di questi. Li ho sempre venduti e poi me le sono sempre ricomprate. Sono scemo, adesso questa non la vendo mai, così mi dai milioni. Su eBay ho trovato il Galaxy Turbo, 350 euro. A me il Turbo non piace, sinceramente. Preferisco questo. Come estetica, come mi piacciono le manopole qua, tutto quanto, invece è così, non mi piace. Quindi la esce con 100 watt, io vorrei fare 500 watt, diventa anche di diare e c'è la stessa con 100 watt. Ma sì, allora è un'altra cosa quando c'è già con i fatti della casa, poi tutta la tastiera si illumina, no, già un bel apparato, è un bel apparato. Ma tu normale lo conosci il Galaxy 5 Stelle, quello che ci usa? È un bellissimo apparato, cioè a me piace, poi. E questo qui è proprio l'originale, poi hanno fatto quello là 100 watt, che è un'imitazione, ma tutta a tasti, non mi piace. Mi piace lo più a manopolo. Io ne ho avuto 3 di quegli apparati lì, già. Io ho avuto 3 di Galaxy Saturnico. Però mi piace il Galaxy Turbo, non è un'imitazione, l'hanno fatto molto, ma non è un'imitazione. Quindi l'hanno, diciamo, un po' aggiornato, basta. Ma io ne ho avuto 5 di questi qua, addirittura uno c'aveva anche la scheda di 45 metri di qua, l'ho subito venduto perché non mi interessava. Mi è arrivato da internet e c'aveva anche la scheda di 45 metri. Ti posso dire che ci aveva l'amplificatore interno da 100 watt, era come il tubo praticamente, al posto dell'alimentatore interno gli hanno messo l'amplificatore e come internamente gli hanno fatto gli edifici che attaccati, gli hanno promesso il codolo jack da attaccare e mettere l'alimentatore esterno, invece più uscire con quello interno usciva con quello interno, al posto dell'alimentatore interno del trasformatore hanno messo il lineare e lo facevo uscire con più di 100 watt. Vabbè, ma se sono sempre cose fatte, io sono sempre del parere che bisogna comprare la cosa e lasciarla così com'è. Il Galaxy Turbo esce dalla casa così, lo prendi, lo fai altro che attaccare la spina, ti prende nell'antenna, voi si andate, tu non hai il tuo alimentatore, caputo. Vabbè, anche il tuo è così. Quegli apparati piacciono un sacco. Anche il Galaxy Saturn Echo normale mi piace, quello che mi piace tantissimo. Infatti adesso ne ho avuto 3, però vabbè, li avevo venduti. Sto chiamandolo, non so se me lo risponderete. Eh sì, sono una piscina che si fa, non so che anche non ho avuto un 5% adesso non ho mai sentito perché prima c'era, ma adesso stanno andando a sparire piano piano, troppo non ha già più 5%, quindi tu rimane la foglia di albero e tu non ce l'hai, invece questo qua non è mai stato toccato perché è troppo nuovo, non c'è un drappo, è stato perfetto. L'ho comprato da un amico e non va bene. Ma la televisione va conservato bene, perché non fa nascere. Sì. Da comunque io non so. Io adesso preferirei il gas, c'è via di più, l'ho visto che faccio un bene, tipo il Milano, la cattiva di Milano, va bene. Sì, è bello, sono belli, l'ho visto anche il turbo lo stesso, sono delle belle radio, dai. È bello, il Galaxy Turbo è bellissimo, poi c'è il concetto fatto, cosa rende? Adesso non hai più il problema che distruggono il televisore, con questi televisori di oggi, non... quindi voi ci volete fare i tibiati. Dipende, perché ho sentito che qualcuno, insomma, ogni tanto sento qualcuno che ha qualche problema. Vabbè, molto meno rispetto a prima, eh. Evidentemente, se distruggono i televisori, chi ha il televisore c'ha ancora il televisore, anche tocca a tutti. È probabile, infatti una volta ne stavamo parlando con Giulio, sì, sicuramente esiste ancora quella possibilità che c'è gente che ancora che ha i vecchi televisori col decoder esterno e quindi praticamente le spurie e gli splatter entrano direttamente tra il decoder e il televisore, capito? Perché con i nuovi televisori LCD no, questo non può succedere. Guardi, io ho l'antenna proprio uguale all'antenna del televisore, niente, vero? L'antenna uguale, niente. Sì, per quel motivo lì, oggi. Proprio per quel tipo, perché è cambiato completamente il sistema, è proprio lo standard che è diverso. Adesso praticamente il segnale che arriva direttamente al ricevitore è digitale, non è più analogico. E quindi non c'è più quel rischio, dai. Comunque ci sto pensando al Galaxy Turbo. Bene Meda, aspetta che sto guardando il telefono, è arrivato un messaggio. No, un amico Franco mi ha postato una foto di un cos'è? Mi sembra una BMW RT 1200 di quelle cruiser con la carena e i bauli grandi. Ma io sono in moto diretta a Sassari, io sono moto a Viaggi. Sì. Infatti mi ha mandato un messaggio dicendo che c'è un amico suo che la sta vendendo. Più o meno tipo la configurazione che ha la polizia, cioè parabrezza alto, grande, borsoni laterali, color champagne. Sì, ho capito. Un attimo mi avvicino il tablet. Eia. Dai, io sto chiudendo che è arrivata gente, dai, ci sentiamo ragazzi, buon continuo con il CEO, buona serata. Ciao Gianni, buon proseguimento anche a te, buona serata. Allora, adesso lo sto cercando. Che cosa oggi? Il Galaxy. Ah, il Galaxy Turbo. Cosa vedi? Su eBay? Ce ne sono diversi su eBay, sia normali che credo turbo. Sì, c'è uno, va bene, 150, lo si tappina, questo è a... questo c'è offerto. Ci vuole lo compro subito, 485 euro, io ti do max. Quanto lo fa? Un attimo. Sono alti, eh. Già questo, 240 è accessibile. Guarda che c'è, su eBay ce ne dovrebbe essere uno 199 o 198. Oh, c'è anche il mio, 260 euro. Ma quello che stai usando adesso? Sì, questo qua, 260 euro, sarà. Caspita. L'hai trovato quello da 198 che ti ho detto io, 198, 199? No. Boh, è su eBay, a meno che boh, non sia stato già venduto. Mi ricordo che ce n'era uno 198 o 199, compralo subito. Boh, forse l'hanno già venduto. Sarà di quei negozi che hanno anche il mercatino online. Ci sarebbe da fare un bel pensierino, no? C'è bello questo. E quindi bisogna, come si dice? Va. Bisogna attrezzarsi per cercare di fare, di sbolognarlo, no? Quello cosa, mi ha detto che va, cioè fa ricerca continua, giusto? Questo c'ha, va da 0 a 30, sintonia continua, c'ha, non so quanti canali, da 0 a 30? Sì, caspita, cazzo allora, bene meda. Da 0 a 30 non è a canali? No, non è a canali, questo c'ha il frequentimetro, sintonia continua. Buonasera. Ciao Tino. Ciao Zia, buonasera. Allora, io sto cercando invece i pomidi del Galaxy. Vediamo se riesco a provare, sono bloccati in internet cercandoli. Però c'è tutto me che penso, è una bellissima. E che ce n'è di meglio? Con le baracchini, con le cose mi parli del Kenwood, tutte quelle cose lì sono, vabbè, altre cose. Ma stai cercando una stazione base, diciamo? Stavo guardando, mi sono interessato se riesco a vedere questo. Beh, dico, tipo il brutto, lo Saturn Echo, quello lì. Sì. Beh, ne ho visto un paio toccanti. Solo che sono, secondo me sono un po' troppo alti di prezzo, però se li fanno pagare. Sì, a Bruglia, c'è questo, è un rivenditore. 240, ma è già accessibile, ma ce ne sono certi, questo qua 485, 490. Lo so. Cioè, scusa che ho provato la mascherina, vediamo se riesco a provare anche i pomilli, porca di dire. Addirittura questo il Galaxy tutto lo stanno dando a 300 euro, però poi sempre un punto di domanda, quando li compri? Perché io ne ho provato anche una a 150 sino a stamattina, poi gli ho fatto una proposta perché effettivamente comprare la scatola chiusa non è conveniente, però chi vende dice no, io prendo così e gli ho fatto una buona offerta, nel senso che gli davo 100 euro di acconto, pagamento alla consegna, una volta provato gli facevo bonifico, ma con tutta la fiducia, per carità, perché a me non piace fare, magari gli facevo una ricarica oppure troppo spedio oppure un bonifico bancario, e ha preferito consegnarlo a mano nella sua città. Però è sempre un punto di domanda, ripeto, perché questi apparati qua hanno di difetto che ritmo di frequenza, se è modificato bisogna vedere che l'ha modificato e come è stato modificato per poter andare per dire anche in banda, se non si riesce a chiudere l'eco non riesce a modulare, sono tante cose che fanno la differenza, attenzione, quindi quando prendi un apparato io ti consiglio di prenderlo anche sul posto per poterlo provare e riuscire a vedere le cose che ha all'interno e come funge. Ciao Tino, bella radio, ma vado un dramma, l'ho attaccato. Ciao a tutti, sto uscendo, dai, sentiamo. Ciao Gianni, ciao Eugenio, ciao ciao. Sto uscendo, sono appena rientrato e sto uscendo di nuovo. Ciao Giulio, scusa, è il tratto, no, tolgo, è una ventolina che ho messo io sopra la radio, non pensavo che dava così fastidio, è una ventolina perché stava, siccome ho sfruttato un po' di quel prodotto per disossidante per le schede all'interno, siccome fa anche un pochino di puzzetta, tra virgolette, era per farla asciugare prima e riuscire a respirare un po' di aria pulita. Ciao Giulio, grazie lo stesso per l'avvertimento. Giù, buonasera. Sto guardando il Galaxy Turbo, che mi sono innamorato di questa parte, troppo bello. No, era solo per informarti, Tio. Scusa se mi sono permesso, ma era solo per informarti, ma la radio è bellissima, non ho niente da dire. Era solo questo rumore continuo, un trapano praticamente, che è abbastanza forte anche. Va bene, dai, scusa, di nuovo ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao, chiudo perché devo uscire. Ciao, scusate, ciao Giulio, buona serata, ben sentito, sì, confermo anch'io, era insomma abbastanza invadente quel rumore lì. Ok, accontentati. No, ripeto, ho sfruttato un po' di prodotto, quindi stavo arieggiando l'apparato da sopra, ho appoggiato una ventolata di PC sopra credendo che non dava fastidio. Giulio, niente di grazie, no, figurati, se devi uscire tranquillo. Ci si riascolta per prossimire, grazie all'avvertimento. Cosa devo scusare? Non devo scusare niente, anzi, sei tu che hai avvisato il mio difetto. Questa è una radio vintage, Giulio, quindi è una radio vecchierata, forse non dico più grande di me, ma quasi, o forse sì. Sì, ripeto, bellissima radio, Tio, bellissima radio veramente, molto molto bella, questa è bellissima. Ciao, ci sentiamo, chiudo veramente, questa volta chiudo veramente, ciao. Va bene, ciao Giulio, ciao. Hai capito cos'era il problema di quelle radio lì? È prenderle qua che costano un po' più soldi e te le lasciano. Ne ho trovato una portatore se ti interessa, è super modificata, credo nella scheda Echo, proprio modulatore quant'altro, quelle che si usano normalmente tra camionisti, ecco. È da un amico che è affidabile, a me addirittura prima di comprarla mi ha detto ti te la lascio, te la provi, te la fai, te la giri, te la regiri e poi se sei contento la prendi, se no me la ritorni. Ah, ma tu parli di base però, non tipo veicolare per capirci. Da base. Ah no, io stavo dicendo tipo veicolare, cioè veicolare, però utilizzato per base. No, allora va bene. Ma dove? Il turbo 100 watt? Non lo so, non mi ricordo cosa ha fatto, però se lo stai dicendo vuol dire che l'hai letto e che sia così, non lo so. Io mi ricordo, io parlo del Galaxy Saturn Echo, che l'ho conosciuto anche e aveva una portata massima di 15 watt. Sì, ma il Galaxy Saturn Echo ne avevo C3, ti conosco bene. Non ho mai avuto il turbo e mi piacerebbe averlo il turbo, perché esce con 100 watt. Va da 5 di 30 a 100. Aspetta, bella storia. Infatti si chiama turbo per quello. Ciao Tino, buonasera a tutti, stavo andando via, dai. Mi stavo ascoltando. Sì Tino, fa da 0 a 100 watt in continuo, col potenziometro. È una bellissima radio, l'ho avuta anch'io, una bella bestiolina. Ciao a tutti, buon fine domenica, ciao ciao. Ciao, guarda se invece mi trovi i pomelli del Galaxy Pluto, se ti viene bene. Già ho parlato anche con l'amico nostro, già mi hai capito più. Io come ne ho, ma non so se sono di qui. Non so, ciao a Gianni, ciao anche a, a come si chiama? A Eugenio, dai. Ci sentiamo che sto uscendo. Sto uscendo, sto uscendo, sto uscendo. Comunque grazie, Turbo ha ragione, Eugenio, una bella bestiolina, io l'ho avuta. Andava molto bene, 100 watt pieni, 100 watt pieni, in AM, in FM, in SSB, da tutte le parti. Ciao Claudio, buona serata. No, no, io non, ti ripeto, parlavo dell'altro, quindi no, non lo conosco. Bene, bene, va bene, va bene, riprendo giù. Sì, no, l'ho detto perché come apparato lo conosco, ti ripeto, ho avuto tre Galaxy Saturn Echo. Li ho dovuti, li ho venduti perché Luca vorrei subire, però vabbè, questo turbo mi intriga parecchio, mi sono fatto una cultura e ci amo. Ok, va bene, va bene. Beh, bello, c'è la tastiera illuminata, bella, bello, bello, bello. Babà, Eugenio pizzicato forte, eh? Meglio questo che altro, Il maestrale, ragazzi. Non più connessione. No, con il metto secco, mi comunque sa per me, io chiudo. Bene veda, bene veda. Così arrivi più forte qua, dai. E questo qua devo anche di perfetta, così ampliamo la sensazione. Caspita, io magari nel frattempo arrivo a qualcos'altro, G. Comunque grazie dell'intenzione. E questa è una cosa bella, vedi? E questa è una cosa bella, tenete rispetto con gli amici perché sono pochi che donano col cuore. Eugenio. Cazzarola. La gente che c'è così che neanche io, sto cercando anch'io qua qualche cosina, vediamo un po' se riesco, esce a vedere, vai, ci provo, dai. Questo esce con 20 watt? Già si sente che non sono 4, dai. Guarda, c'è cambiato qualcosa adesso, già, come segnale. Adesso ti sei abbassato? Adesso è aumentato. Claro che sì, claro che sì. E oggi, mi ricordi la tua posizione, se è possibile? Non posso parlare perché sono latitante già da anni, quindi non so mai. Allora, va bene, rimango col punto di domanda. No, sono all'ingresso di Porto Torres. Conosci Porto Torres? Sì, un pochino, va. All'uscita di Porto Torres ci sono quei semafori nuovi, gli hanno fatto... Sì. Ecco, sono lì. Ah, buono, buono. Ci devo scendere anche la prossima settimana lì, da quelle parti. C'è il campo vicino. Il campo da calcio? Veglia. Questo sono confinato. Hai visto? Adesso ti ho sputato, cambia posizione, così non ti trovo. No, c'è problema. Se non c'è il semaforo, sono quello che l'ha mai visto il semaforo. Ah, ecco. Senti un po', lì quanto sta arrivando con 6 watt? 7 e 10. Questa è una bella radio, vecchia, però si fa ancora sentire. Beh, mi sembra non è troppo più radio da 2019, sono tutti anni 90, 80. Anche questa che sto usando io non è che non penso che sia moltissimo. Ma io credo che questo sia anni 60, 70, credo, se non qualcosa in meno anche. Io sto usando il Galaxy Uranus. E io invece mi hanno dato in prestito, anzi veramente ho prelevato io dal covo in prestito una radio modello base, chiamiamolo così, per farti capire le grandezze delle Galaxy che stai cercando tu, è una Lafayette questo qua, è un Telesat 140 SSB. Ah sì, c'è anche Lafayette uguale al Galaxy, ma c'è anche l'Ala 555 di Sant'Anna. Per dirti, no, che testa a 6 watt modulati vai 7-8, quindi non no. Ma esce benissimo, per quanto, cioè, l'ho allineata con un più 4. Quindi per farti capire com'è le radio di vecchio stampo, come vanno, molto meglio di quelle diciamo al giorno d'oggi, sono dure a morire. Io ne ho due, quell'altra oro si chiama così. Come? Ho detto io ne ho due e hanno la culatta d'oro, si chiama così, quelli che perché hanno fatto un primo modelli. Il primo modello era color oro dietro. Già, sì, bravo. Infatti si conosci, ma quello con l'oro dietro è vero. Tutti lo dicono, perché dice che il nuovo no, non serve a niente, cioè non serve a niente, dice che non si può modificare, non so, un sacco di casini. Allora ragazzi, scusate se mi intrometto. Allora, la radio che ho visto io, che praticamente è quasi la gemella del Galaxy, qua è AMI International Jumbo, praticamente esteticamente è uguale sia all'Alan 55 che al Galaxy. AMI International Jumbo, radio base, barabì barabà, ed è, si trova in Italia a 199 euro. Su eBay, però non dovrebbe essere, è usata, AMI International, una Jumbo, e praticamente sembra il parente stretto, gemello del Galaxy, la base. Sì. Lo conosci Titi? No, scusa, stavo leggendo. Non mi ero mai interessato, è adesso che mi sto interessando un pochino ma più che altro ai veicolari, che poi se apri a parte quello turbo che vi stava dicendo Eugenio, non lo so com'è, però il Galaxy normale ha la stessa scheda del tutto, e solo che in più ha il trasformatore e qualcosina, insomma in più, però del resto non lo deve uguale. Ma ti posso anche toccare la mano, sì? Non tanto per i soldi, ma per così posso andare in giro a dire che sono gli amici. Sì, aspetta, posso anche toccarti la mano, nel senso che posso dire che ho avuto l'onore di toccare la mano a Eugenio. Non ce l'arriviamo. Va. Avevo un affare, proprio qua, sto scendendo. K, e anche il Colt Excalibur SSB è bello, che praticamente lo stesso sembra il gemello del Galaxy. Ce n'erano qua, ma è stato venduto. Scusate che devo accendere il fuoco, che qua in Cotriaca Campagnolo c'è un po' di fraschetto, un po' di ghiaccio, e prendo l'oppo. Bene, bene. Dai, concludiamo il punto, dai. Ci torniamo al bicicletta. Già, noi avevamo tanti anni fa, ti parlo 85-90, avevamo la storia di cicli grandi a Borrettone. Ce lo sapete anche? No, non lo sapevo oggi. Avevamo la serie, avevamo appena più piano. Il piano fu dove c'è un terremoto. Poi giù c'è anche la telegrafica, la Sovaglia, Pino, i Rivaletti, è un bel bene. Caspita, proprio super attrezzati allora, no? Ma era bellissimo, poi c'era sempre pieno di gente. Immagino, vabbè, erano altri tempi. Ho trovato la radio che hai visto tu, Eugè, il Galaxy, il Saturn Echo, quello del rivenditore. Vediamo un po', 240, ricondizionato dal venditore, quello lì è. Ragazzi, va bene già, io ti devo salutare, va, che si è fatto tardi. Devo andare a recuperare le pizze. Ciao, ci sentiamo più tardi, ok? Se magari coincide. Più tardi posso rientrare, adesso vediamo, ok? K, dai, Buona pizza, ok, grazie mille per il questo. Dai, ci aggiorniamo, ok, un abbraccio. E chi te l'ha detto? Ciao Luigi, ciao. Buona pizzata. Vabbè, no, io ho trovato delle mascherine per il frutto, però non quello che mi interessa a me. Buona ricerca allora. Porca miseria, poi diciamo che ho trovato una pagina dove ti dà le modifiche, però è il catalogo in allestimento, quindi è nullo. Ho capito, ancora sicuramente sono in fase di lavorazione. Vabbè. Adesso vedo un po' se riesco a trovare meglio. Magari sicuramente qualcosa si trova, magari un apparecchio insomma smontato oppure per pezzi di ricambio. Ah sì, anche quello, se non lo prendo non c'è problema. Poi da uno ne fai uno, dai, non è che, però bisogna trovarlo. Certo. Sì, la ricerca si fa più impegnativa. È vero. Allora, ho trovato di cose, però non quelle che interessano a me. Poi ho un sacco di forum, quindi voglio vedere già tutto. Magari sui forum c'è più possibilità di trovare qualche aggancio, magari qualche dritta. Lo so, quello che ho fatto sulle scritte grandi, no? Sai, come nella Nuova Sardegna, quando guardi il giornale, tutte volte, queste sono cose che mi hanno segnato a scuola quando ho fatto le scuole da ragazzo, no? Ci hanno dato un testo a fare. E praticamente c'erano più notizie interessanti scritte in piccolo che quelle in grandi, capito? Quelle in grandi magari erano quelle del giorno, quelle che dovevano apparire più importanti, però magari sfogliando anche nelle piccolezze trovi la notizia interessante, capito? Certo, certo, quella è tutta una tecnica. È come gli sponsor sulla macchina da corsa, no? Più grande è lo sponsor, più soldi ci sono in giro. Sì, però io parlo al contrario. Molte volte le notizie interessanti sono anche quelle piccole, che noi magari ci passiamo anche sopra. C'è capo, non l'ho visto, lui già vede già c'è. Capito? Sì. Adesso ho fatto il paragone dei titoloni dei giornali, mi è venuto in mente di fare quel paragone lì. Scusa, un minuto. Tranquillo. Eccomi. Ecco qua. Sì, allora io ho finito 420 canali. Porca miseria. Ne ho trovato uno, il vecchio Galaxy, diciamo, quello, non so se c'è presente, quello frontale argentato. Che però io mi ricordavo che era a solo 820 canali. 120 canali, ne manca anche un tantino di 10 kHz. Ah, ma sei su eBay? Forse l'ho già visto quell'apparecchio. Sì, su eBay, sto cercando dei componenti, se riesco a trovarlo, non mi interessa la radio. Sì, forse l'ho visto quello che stai dicendo tu. C'è un altro per dire, CB-Base fissa Galaxy Saturn 5 bande, 30 watt di potenza, 150 euro. Però è all'asta, compra subito 230, anche se sono bravate, però. Ma poi effettivamente io ho un bel parere che se si vuole aiutare si aiuta con un tipo di minaretto e basta, ne metti quanto in voi. Certo. È così, cioè sicuramente chi mette in vendita quelle radio a quel prezzo sa effettivamente più o meno il valore della radio, ecco perché magari non le vuole svendere. Certo, non avete in dubbio. E poi a seconda del modello, come stavamo dicendo l'altro giorno, magari di alcuni ne sono stati prodotti meno, quindi magari diventano più ricercati e tutte cose. Ma io ho messo la ricerca anche tu, porca miseria, non è stato uguale. Ogni tanto qua lo stesso la connessione va e viene, come da Eugenio. Ci sono momenti dove riesco a malapena a vedere qualcosa e altri proprio zero. Ah, come mai? Non è la fibra di Sassari? No, no, io sono Gubo Sciomari, io quando mi serve aggancio al telefono, capito? Ah, ecco, perché so che a Sassari la fibra va passando, è qua che non ci passa, purtroppo, qua. Allora, praticamente, principalmente, anzi, parliamo per 20 mega, a distanza di qualche periodo ho guardato il test di velocità e avevo 2-3 mega, ma come si spiega? Io parlo per 20, perché sa, la colonnina è lontano da lei, sì, ce l'ho detto a 200 metri, ma non penso che, nel tragitto perdono lì, caspita. Ultimamente mi hanno fatto questa proposta qua di prendermi così a regalo come si chiama questo cazzo di qua, un decoder dove io posso vedere film TV, questa roba qua, sono un sacco di film in prima linea. Vabbè, mi hanno fatto arrivare, ho detto in prova che poi non si paghi niente, perché non credo che voi mi date una cosa regalo e poi magari ne preoccupate il canale mensile, ma torno, questo è tutto gratis, va bene. Niente, metto un film, mi guardo io all'inizio, tutto, bello, non l'ho mai visto, bello. Quanto è durato? 30 secondi? 30 secondi poi inizia, sai, la rotella a girare, a fare girare la ruota, connessione lenta. Tanto vale che ce l'hai. Adesso ne ho 5-6 di mega, ma non ce la fa per andare questo film. Appare la rotellina con la scritta buffering che sta caricando. Poi vabbè, se ultimamente poi se è roba in alta definizione prima di caricarlo ce ne vuole di segnale, quindi insomma capisco che si pianta. Ma si pianta, poi è il tempo di andare a mangiare, quando sei arrivato è proprio la tempa già grande. Sì, non va bene. Infatti adesso vediamo, però non credo che qua passi la fibra, almeno per il momento. Io sono in una posizione un po' interna alla città e insomma, ma vediamo. Adesso stanno facendo tutta la parte insomma centrale della città, poi chissà magari le periferie le faranno magari in un secondo momento. È più o meno come funziona con YouTube, no? Cioè come aprire un video, guardarlo in definizione standard oppure guardarlo in Full HD. Secondo le connessioni hai, in Full HD non riesci a vederlo. Sì, infatti. Comunque sono entrato in un sito, non so se l'avete visto, aspetta, ma perché questo sito? Vabbè, c'è scritto, dici un attimino, ecco, sono uscito, allora, c'è scritto buono uguale prezzo, e ho scritto Galaxy CV e accessori, e mi ha dato una pagina dove ci sono un sacco di Galaxy Saturn Echo, uno a 240 euro, vabbè l'altro è troppo esagerato a 485, un altro 150 più 30 euro di spedizione, un altro 490, ce ne sono parecchi comunque, quello penso di più, perché erano uno dietro l'altro, credo, ce ne sono parecchi, vedo scorrendo, questo è, sembra buono, anche bella presenza, vediamo cos'è, per vedere giusto, allora questo qua è un braccio sciato, sì, è un pochino sporco, però si vede che è adattato, però è in buone condizioni. Sì, forse l'ho visto anch'io. Sicuramente tu hai cliccato quei motori di ricerca tipo facile.it, ci sono quei motori di ricerca praticamente che ti aiutano a, insomma, a trovare vari risultati. Io ho cliccato quelli sulla destra anziché quello normale sulla sinistra, no? Ci sono quelli evidenziati che fanno vedere le cose che ti interessano e poi magari ti mandano su un'altra pagina, su un'altra pagina ancora e così, così via. Ho capito, sì, sono quei motori di ricerca che, insomma, che ti indicizzano praticamente tutto quello che stai cercando, insomma, tutto quello che digiti. Sì, è vero. Ma adesso vediamo, se riesco ne faccio anche il manuale di, perché ci sono gli schemi e quant'altro, ma lo scarico. Avanti il fischio. Eccoci. Ebbè ragazzuoli, tu non è che ne hai per caso qualche pomello del Pluto, no? In più. Ciao Tino, no, Galaxy Pluto. Galaxy Pluto, illuminami. Non so, accendi la luce, magari vedi. Galaxy Pluto, quello col frequentimetro. Che ha i pomelli piccoli e all'interno un po' più grandi, tipo, non dico tipo il tempo, ma similari, dai, per farti capire come sono i pomelli, che hanno due funzioni. Ah, sì, io ho quello lì, c'ho l'iPhone, sono così, due pomelli, uno piccolo da sopra il volume e l'altro per lo squelch. Esatto, di quelli non ne hai in più. No, volentieri ma no. Perché quale ti manca? Me ne mancano tre e devo cercare. Non se riesco a trovare tutti quanti nuovi, li riprendo e li piatto tutti nuovi. Solo che non riesco a trovarlo, sono alla ricerca. Aspetta che do un'occhiata io, tanto io la connessione mia è abbastanza veloce, io ho in postrada. Grazie a Dio, guarda, non mi posso lamentare, ma più che bene. Un'occhiata io, avanti Gianni. Ciao Luca, buonasera, ancora a Roma Diadosi? Ma per carità, io guarda, minimo un altro mese me lo faccio, allucinante va. Sono qua a Roma Diadosi, ma mai mal di gola mi è passato, poi c'ho questo mal di testa, sicuramente è dovuto dal catarro, dal mucco che è andato a finire su. Vabbè, poi anche il tempo non ti sta aiutando in questi giorni, dai. E poi comunque sta dicembre, ma lì muoci. Infatti non vuole visto, la giornata non voleva vista, per carità, cioè proprio... vabbè, ok, dai, buona ricerca allora. E adesso sono qua, là. Va bene, cerca lo che mi interessa. Da prima mi sicuramente mia madre adesso non entra più in camera mia, capito? Perché io, vabbè, dormo qua a casa di mamma ogni notte. Se il letto non lo sistemo io, tranquillo che non ci entra lì qua. No, ho capito. Ho detto che prima mi sistemo il letto, poi ti faccio la ricerca lì. Se che mamma qua non entra più a sistemarlo, prima un tempo entrava. Adesso se lo lascio che non è messo bene, quando rientro lo trovo sempre che come l'ho lasciato, ecco. E se me lo sistemo io, ciao, arrivederci. Ma per carità, fai un comodo, senza fretta, se non ce la fai oggi o un altro giorno non c'è problema. Ora se riesci a trovare anche kit di modifiche e quant'altro. Io ho provato la mascherina Red Bull, quella italiana, ma quella non mi interessa, mi interessano più che altro momentaneamente i pomelli e poi vediamo cosa riesco a trovare. Allora, qua c'è un cavolo di baracchino, è Radio CV Am Galaxy, baracchino veicolare, ricetta trasmittente vintage, radioamatori, 124 più 132 euro circa. Ho scritto pomelli, baracchino CB, Galaxy Pluto, come la sua questo apparecchio, che ha il frontale grigio. Poi noto che c'è un alimentatore dietro e un'antenna di macchina. In tutto ho preso tutta questa roba a 132 euro. No, lui, io ce l'ho la radio. A me mi servono solo i pomelli. però il panino me lo faccio io. Allora, adesso con i pomelli e poi magari eventuali modifiche tipo il doppio modulatore, oppure non so se si può avere neanche il doppio modulatore, oppure il Roger Beep, oppure effetto accolto, così, perché devo prendere questi pezzi per farmi piazzare, però la cosa era anche io è normalissima, capito? È normale, normale. Non è nuovo peo, cioè primo peo, però è normale, senza essere manomessa. Ho capito, cioè, vedete, se me lo da qua. Allora, immagini, nell'articolo la pomeriggio di parecchio da distrutto. E come il mio, c'ha cioè, frequentimetro, c'ha, cioè, no? Sì, ha il frequentimetro, ha lo smitter sulla sinistra, e poi l'accensione, lo spegnimento sulla sinistra sempre, lo squelch, vabbè, adesso non mi ricordo, sto facendo la memoria perché non ce l'ho qua. Refigame, chine, la potenza, i tattini sopra. Ma è modificata a colte, no? No, ma lo voglio fare modificato a colpo, hai capito? Quindi mi serve tutto l'ambaradanda, sbatterci dentro, perché questo è normalissimo, non ha niente. Infatti questo qua che ho trovato, aspetta, allora questo qua che ho trovato è modificato, vediamo un po', immagini relative, da Xtuto Code Top, riesci a vedere? Allora, vediamo. Vabbè, comunque questo qua è allora ci sono, vabbè, e come si chiama, i tu dice chi è proprio, vabbè, no, un bel apparecchio. Sono lì, ho recuperato dal fondo della cantina giusto per capirci, e praticamente l'hanno riportato in vita, non io, il tecnico l'ha portato in vita e sto cercando i componenti che mancano per poterlo finire, diciamo. Sì, sì. Poi piace a me, come fai propagazione, no? Carino, vai, con qualche watt in più sotto. È tipo quello di Massimiliano, dai, poi se mi sai neanche uno Claudio. Non lo so, non lo so. No, vabbè, Massimiliano, non mi ricordo che era quello, forse l'S9, o altri apparati similari. Lui ce l'avevo, sai chi? Gigino Vulcano. Sì, mi ricordo. Gigino ha avuto un bel... Mi sa che c'è qualche apparecchio ancora, tipo quello tutto americano, no? Aerografato, con le bandiere americane, tutto modificato cotta, calamita, bello quello, mi sa che ha pagato 500 euro, ma una radio allucinante, tutto, come si dice, tutti i pomelli illuminati, se non sbaglio c'è anche il... non so, per farlo girare di più un tastino sul microfono normale, tu schiacci e non so, esci più potente. Comunque una cosa del genere, avevo pagato la cifra lì. Sì, lo so. Diciamo che ce l'ha... è in casa, diciamo, quello. L'ho già provato con l'apparato lì. È già la piazza sensazione. E io voglio fare un similare, anche se quello lì fa da 0 o da 1 watt a 70 watt con picchi positivi, quindi è una bella bestietta. Va bene, già riprendi, se no sei in bianco, porca miseria, lo stai cercando alla grande. Tranquilli, fate se dovete fare, non ci sono problemi, come diceva l'amico, no problem. No, vabbè, fatti voi, se mi ha sentito io, dai, invece sto a letto qua. Va bene. Sì, io immagino relative a manopole, ho trovato tutti gli apparati, quelle manopole attaccate, però. Adesso vediamo, dai. devo aprire e vedere un pochino cosa riesco a trovare, perché l'immagine mi dà un sacco di radio, un sacco di... ma non mi dà quello che sto cercando. Boh, vediamo. L'unica è trovare una radio non funzionante, cannibalizzati i pezzi, perché i pezzi singoli sono molto difficili da trovare. Che è da Pomponio? Io sono sicuro che ti vi dà, Tino, che è da Pomponio? No, vabbè, ma devo chiedere anche... no, ma già rispondere procuro io. Sicuramente che Gigino qualcosa ce l'ha. No, non voglio fare una pagliacciata. Se riesco a trovarli, adesso me ne servono tre momentaneamente, giusto per metterli in uso e vedere un po' come funziona, però se riesco a trovarli nuovi mi ricambio tutti quanti, capito? La voglio fare, insomma, a parte che il frontale della radio è perfetto, non vuole solo fuito alla polvere e basta, non è né usurato, né graffiato, né niente. I pomelli sono, mancano, non so perché, magari un pezzo serviva a uno, un pezzo serviva all'altro, addirittura la smonterò nuovamente e avvicinerò la riporto nuova, cioè la rifaccio alla vetrina, perché a me sinceramente avere radio graffiate, vecchie, messe male in stazione non è che mi interessa, anche se c'è bene, guarda, un amico mio ha recuperato da un suo autista una radio, un CB, un Milan Alan 48, che all'interno ha di tutto e di più, credimi, è super elaborato, effetto colpo, doppio modulatore, aumentazione dell'aumento del fat, però quella radio solo a averla a 2 metri di distanza senti la puzza della sigaretta, il frontalino è giallo dalla nicotina che ha, essendo sempre un apparato che è stato in furgone, ti puoi immaginare come cavolo è. I cofani dei tappi non vogliono visti, perché sicuramente era sballottato da una parte all'altra, però è una radio che se tu schiacci la portante è un apparato ben messo per poter andare no aire, però effettivamente guardarlo dovresti fare la distanza anche. Quanti lati ci vogliono, dai? Non è un bel vedere, è che effettivamente per le cose che all'interno hanno speso un sacco di soldi per poterla far andare effetto colpo come si utilizza, diciamo, però tenuta malissimo. Se era dentro un mezzo di trasporto del genere, figurati tu. Ecco, vedi, ho provato il pomeriggio del 48, sia originale che per rotondi, che con le luci all'interno, vai, tutte la qualità, però non vanno bene con quelli che sto cercando io. Il 48 è, come ho detto l'altro giorno, sì, si trova tutta quella roba perché è un apparecchio molto diffuso. Allora 48, bla, aspetta un attimo, no, invece non è che hanno messo allora 48 conto elaborato, invece il tutto con le sciarinesci, con i pomelli, quelli bianchi, che puoi mettergli la lucetta e fai illuminare, però non so se stanno venendo la radio o meno, sicuramente stanno venendo la radio. E beh, lui il letto ha rifatto, dai. Sì, un attimino, ora ti chiedi in caserma, lascia il tempo che hai rifatto. In caserma hai video le contatte, i minuti contatti. E già lo sai, deve saltare la moneta, eh. Si sta rimboccando bene le coperte, dai. Per poi sconciarlo di nuovo, te lo immagini? Beh, certo. Che ore sono? Boh, allora non me la metto. E ci vediamo un po'. Vabbè, non sarà ancora ora, le 20:38. Eia. Ma puoi fare una prova in FM con quello che hai? Puoi andare in FM? Negativo, io FM 0. Ah, va bene. Aspettiamo a Luca se può, perché ho tanto non andato in FM. Ma forse credo che sia difetto della... difetto, stavo raccogliendo il rumore della ventola. Io lui, finito di fare questa branda. Niente. che mi ha dato una brutta notizia, è impossibile raggiungere il sito. Bene, sono molto preoccupato. Ok. Ogni tanto succede, e magari qualche come si dice? Qualche dominio, è stato chiuso il dominio, allora è già andato tutto. Ma qua sono sì, sono aperta, ma stanno prendendo la RAI, tutte le RAI sono forti nel video. Non riesco a trovarmi. Ma non mollo, adesso vediamo. Magari quando meno te l'aspetti salta fuori tutto. Sì, perché poi io vabbè ho scritto manopole, tagliare su tutto, comunistica, delle varie, quindi mi deve prendere la RAI, perché questo sono posso per dire. Con modifiche e vediamo cosa mi dà. Tac, e c'è da vedere cosa mi dà. Mi dà le modifiche per il GFK che non mi interessa. Gli altri sono altre. Questa mi dà quelle del 48. Mi dà anche un link. Non mi dà quello che mi serve. E quindi è proprio perché magari quella radio non è tanto diffusa. Vabbè, no, già ci sono perché, però devo trovare un negozio. Perché poi, guarda, non so se ce l'hai presente il 6009, ha le stesse identiche manopole perché sono praticamente la stessa radio, cambia qualche cosina, solo che questa qua è più moderna, ecco. Cambia qualche spostamento di tasto, ma i tasti, anche quelli quadrati, sono precisi al tutto. Si chiama diversamente, però è la stessa radio. E allora fai una ricerca multipla, cioè se hai detto che i tasti sono uguali, però vabbè, anche se la radio magari è diversa, magari hai più possibilità di trovare quello che cerchi. Infatti adesso faccio la ricerca per il 6009. Guarda, sono sicuro che sicuramente avrai più risultati così che non cercando la radio originale. Sicuramente. Oggi non si è fatto sentire, se no Marco Condor magari poteva darci qualche dritta, se è in ascolto. Vediamo, adesso ho fatto ricerca, mi dà sempre... sempre con cosina di non dico che mi interessa a me, ecco. Adesso scrivo invece pomeriggio per CB, vediamo perché mi ha dato anche pomeriggio delle cucine vinta. Prova magari con la traduzione, prova a scriverlo magari anche in inglese. Allora, pomeriggio per CB mi ha dato qualche cosina in più, però sempre per il 48. Ce ne sono una maniera. E poi vabbè per cucina, per trasparenti, quelli sì, ma non quelli che sono nomi. Invece di magari chiamarlo pomello, prova a chiamare tipo comando, tastino in plastica, non tastino, tipo tastino, manopolina, qualche altro sinonimo, magari ti esce qualcos'altro. Sì, adesso scrivo anziché pomelli, scrivo però manopolina, e mi dà le manopole della moto. Te l'ho detto, prova, cioè più sinonimi ci metti più possibilità hai, e poi trovare anche un sinonimo in inglese, qualcosa del genere. Sì, però come ne sto dando qualcosina in più e sto scorrendo, vediamo un pochino se riesco. Di moto ce ne sono addirittura anche una camera eco, c'è 9,5. Non riesco. Quelli del 48, della Fayette ci sono in tutte le pagine. Prova a mettere ricambi parts in inglese con la S finale, per vedere insomma qualcosa in più magari la trovi. Adesso finisco di scorrere questa, vediamo cosa esce fuori. Ma sicuramente adesso mi fanno tutta quanta roba di moto, quindi no, bisogna trasformare i ricambi. Vedi, qua ho scritto ricambi per radio CB, per qualche dozzina in più me l'ha dato. Però immagini me l'ha dato. Però magari dalle immagini se riesco a trovare quello che mi interessa. Il 180 euro l'ho fatto questa radio qua. Non avevo dato neanche 5 lire. Sì, dalle foto puoi arrivare all'origine del sito su cui è pubblicata la foto. Sì, però ancora non ho trovato quello che sto cercando prima, sto scorrendo verso il basso per vedere un pochino cosa esce fuori. E sui forum cosa hai trovato? Qualcosa? No, non devo voler leggere. Ah, mi dà la radio che avevo io, delle voice. Ce ne sono poi che cose radio vintage. Allora, qua c'è anche Venezia Marghiera, quella delle reti città, e chiedere acquisti. Puntualmente sotto casa c'è la fermata del Pullman dell'Ars e puntualmente si parcheggiano le macchine, ragazzi, sono in casa nei 3 ore su Nendi. Ah, capisco. Perché ci sono i Pullman sostitutivi, perché la tratta con Alghero è chiusa per lavori. Ah, ma tu sei vicino alla stazione? Molto vicino. Ah, ho capito. Vado per la più avanti o non verso i parcheggi dei Pullman, quella parte lì. Praticamente sono attaccato alla stazione di Sirio. Ah, ho capito. E anche quella è una bella rottura di balle. Non avete dubbio. Cigoli, sfregamenti, vibrazioni e tutte cose. Ma no, a me invece è il contrario, a me sai cosa mi dà fastidio qua nel mio cucchiaio a Campagnolo, quando si mettono a tagliare legna, la motosega è una cosa allucinante, entra nella radio, vabbè io parlo in questa, nell'altra non li corica neanche il pelo, però in questa proprio disturba. Sì, poi vabbè, immagino. Poi adesso è che è periodo, sì, mi lo posso immaginare. Se tu sei, va bene, però vuole, bisogna lasciare stare. Beh, certo. Nulla, non sto riuscendo a trovare, guarda, poi neanche te ne aspetti, siamo andati con Zio Vizio, come vedi, siamo che quando ricerchi no, non è trovi. Dura. Ma adesso ho mandato anche un vocale a Gigino, se ha qualche cosa lui già la recupera. A chi, a Claudio dici? No, a Gigino Vulcano, lui di questa radio qua ne ha manipolato qualche una, quindi vedo un po'. No, perché voglio, se riesco a mettere in opera questa qua che mi hanno sistemato, riportarla diciamo allo stato naturale e poi con un po' più di pazienza gli do il link quando ho tempo e pazienza a controllarmelo e allinearmelo, perché mi sembra impossibile che esca male questa radio, perché l'hanno usata, l'hanno fatta anche loro, l'hanno zappata all'interno, quindi è una radio che a me piace, capito? Mi dà fastidio averla e non poterla utilizzare. Certo, magari qualcuno ci ha già giocato dentro. Ah sì, quello senza un bel dubbio, perché vabbè, ci hanno giocato dentro, poi ti ripeto, ha preso un sacco di umiltà, anche se era dentro casa, era una taverna dove purtroppo c'è umidità, quindi un po' lucido ha giocato anche non poteva a suo favore, capito? Certo. L'umidità fa danno. Io stacco, faccio QRT. E niente, dai. buona ricerca, magari sono sicuro che qualcosa già salterà fuori, dai. Salutami Luca quando rientra, ci aggiorniamo alle prossime. Ok, buona serata. Sì, va bene, ciao già, ciao, buona carica, buon tifone, lo farai. Buona fine serata anche a te, ci si ascolta. Non lo so Luca, magari c'è. Luca, ci sei ancora? Beh, anche lui è una cosa di branda. Va bene, dai, a domani, ciao ciao. Ciao ciao.